Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua, una buona serata a tutti. Sono le 22:48 minuti di questo martedì 3 maggio del 2011 e dopo esserci gustati la partita di pallavolo assieme a Sergio Bortolami e alla redazione sportiva della Pallavolo per l'appunto, siamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto per Rock Wave nel classico appuntamento live. Quindi buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata live proponiamo un qualcosa di davvero particolare per la parte rock, nel senso che gli ospiti di questa sera sono, sì, presentano una base rock, però sono molto legati alla musica elettronica. E diamo il benvenuto direttamente da Bassano ai Finks, eccoli qua. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, allora fatto buon viaggio? Fatto buon viaggio, sì. Sì, bene, buon bene. Viaggio, però eravate in quattro, ne avete perso uno, per, perso strada, uno eh. Per strada. Sono bastati 40 km per perderlo, sì, voglio sì. Dire. Niente, ne approfittiamo per salutare già in partenza Alberto, che non ha potuto seguirvi, che è a casa malato, che esatto. Sicuramente ci starà ascoltando. E mentre ringraziamo per la loro presenza appunto Francesco alla chitarra, Daniele alle tastiere e Pietro al basso, anche comunque senza batteria qualcosa si può fare, qualcosa, bisogna dimostrare ad Alberto che siete forti anche in tre. Benissimo, allora Finks, innanzitutto vediamo di chiarire quello che è il nome con i nostri ascoltatori che si staranno chiedendo: ma come mai un gruppo decide di chiamarsi Finks? Casualmente casualmente, cioè nel senso che era partito tutto dall'idea di chiamarci Sphinx, vista la... ci piaceva l'idea della Sfinge, in realtà era stata proposta da un ex membro di questo gruppo, ne sono sì. Passati molti. Ecco. E praticamente è successo che poi era un po' difficile da pronunciare, era un po' complesso da non lo so, comunque Pietro un giorno si è appoggiato su un case in cui era scritta, praticamente avevamo tutti i nostri strumenti, li avevamo etichettati per non perderli durante i concerti, si è appoggiato sopra una di queste etichette, abbiamo letto Finks, ci è piaciuta di più, non so per quale motivo, e abbiamo deciso di tenere. Una parola a metà tra pensiero sì, e metà realtà, rosa, no? Quindi Finks tra Pink e Things. No, no. Pink non ci piace tanto. No, non vi piace. No, niente, però adesso... più magari appunto Things oppure... cos'è che era l'altra? Assomigliava a qualcos'altro. Qualche no, altro vabbè. Gioco di parole un che comunque viene in mente sì. Con poi Finks. Poi ho scoperto comunque che c'è una specie di personaggio del mondo fantasy che ha questo nome, che è tipo una strega, non so, non mi ricordo neanche cosa faccia di particolare, però insomma un essere un po' particolare. Lo chiederemo a Tolkien o alla Marion Timber Bradley, che ne scrivono tante di queste. Si chiama Zesi Sphinx, ecco, praticamente questo, il personaggio del vedi mondo che fantasy. Che lo conoscevi Maurizio? No, non è che lo conosco, cioè ho studiato. Mi sono ti sei documentato. Documentato un secondo. No, perché sinceramente ti pensavo, oltre che un grande critico e conoscitore della musica, non solo dei nostri tempi, anche un lettore di fantasy, il che non è male, assolutamente. Beh, sì, può darsi che lo invece sia. Come lettura preferisce la Gazzetta dello Sport, Maurizio, ve lo devo dire. Effettivamente, sì, soprattutto a lunedì, Flavio. Okay. Certo. Bene, allora, Finks, sono venuti da Bassano per presentare la loro musica, una musica formata da tanta elettronica. Sì. Diciamo che appunto il nostro lato elettronico cerchiamo di conciliarlo col nostro lato un attimo più fisico, più rocchettaro. Più rocchettaro, decisamente. Quindi alla musica insomma suonata, quindi il fatto comunque di fare l'elettronica, però di portarla su un palco suonandola, chiaramente facendo utilizzo di strumentazione elettronica, quali sintetizzatori, computer, controller e via dicendo, però insomma cercando di diffonderla con un lato un attimo più umano. Sì, ma l'elettronica che martella spesso, nelle tracce del disco ci sono due o tre pezzi molto martellanti, sì. Anche se sono in chiave elettronica, tra virgolette possiamo dire questo. Sì, beh, l'elettronica, ormai dire elettronica vuol dire tutto e niente, nel senso che è presente praticamente ovunque, è presente nel pop mainstream, è presente nell'indie, è presente nel... anche nella musica, tra virgolette, nella soundtrack, con sì, un personaggio certo. Come Hans Zimmer sta facendo dell'elettronica e un po' il suo insomma cavallo di battaglia, il fatto di introdurre questi appunto effetti dentro anche questo tipo di musiche. E nel nostro caso chiaramente siamo figli del nostro tempo, quindi abbiamo fin da piccoli siamo nati sui computer, abbiamo iniziato da presto a sperimentare l'utilizzo del computer come un vero e proprio strumento. Finalmente adesso è stato riconosciuto anche dal nostro ministero. Questo è vero. Questo è vero. Nel senso che i corsi, ad esempio, di musica elettronica adesso sono attivi anche nei conservatori, questo tipo di cose. Quindi... Che diciamo il computer diventa uno strumento a percussione quando ci vai addosso col pugno perché non riesci a far andare un certo programma. Sì, no? Succede sì. Anche questo, però. Per accordarlo in un certo senso. Vabbè, allora stiamo parlando con i Finks e per far conoscere già ai nostri ascoltatori quella che è la musica di cui andiamo a parlare durante questa serata, direi di partire subito con un primo pezzo tratto dal vostro album Login, si chiama così, sì. E abbiamo scelto il pezzo numero 5 per far conoscere qualcosa di più della vostra musica e quindi diamo spazio a Italian Job. Rockway, l'onda del rock. Take it. Look, it's not hard when I try to do this. Art is winning the fight, and now we're walking. Take the future apart, forgetting myself. Central station of my grid. Then I go and see reality. Do you believe in shooting stars? All of these lights are avatars. I've got no money, wondering where is my nation. I'll build it now. I wanna break up your disease. They will never. For my creed, I'm gonna Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rockwave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora con Rockwave, l'onda del rock, questa serata tutta elettronica con i Thinks, il loro ultimo lavoro si intitola Login, ci siamo ascoltati questo pezzo che si intitola Italian Job, tanto per conoscere già con chi stiamo parlando, quindi i Thinks, gruppo di Bassano, con questo lavoro italiano, come mai l'avete chiamato così? A parte, voi cantate sempre in inglese. In inglese, sì. Ecco, però voglio dire, i testi, appunto, siete italiani, e i testi immagino nascano un po' in italiano, un po' in inglese. Sì, un misto. Diciamo un misto. Sì, appunto, tante volte nascono in italiano, tante volte magari nascono direttamente in inglese. E poi la scelta insomma dell'inglese è più una questione di suono, nel senso che per noi il testo comunque arrivi un attimo dopo. L'italiano è una lingua che tendenzialmente ti porta ad avere il testo come prima cosa. L'italiano che ascolta comunque musica in italiano, anche involontariamente, generalmente tende ad ascoltare come prima cosa il testo. Anche perché, voglio dire, canzoni cantautorali portano sempre un messaggio, poi. Sì. La nostra tradizione cantautorale è molto forte e la lingua in sé è una lingua che da sempre, insomma, ha avuto un'importanza. Cioè, quello che dici in italiano è molto più importante di quello che magari puoi andare a dire in inglese, e al di là di questo ti arriva prima. Quindi è una cosa molto bella, ma allo stesso tempo anche limitante, nel momento in cui tu vuoi un attimo esprimere come prima cosa il suono, certe sonorità. E quindi abbiamo scelto, e continueremo per ora a scegliere, il fatto di cantare in inglese, proprio per avere un attimo dare all'ascoltatore un insieme un attimo più uniforme, quindi a discapito magari delle liriche che sono curate sicuramente. Cioè, io chiaramente ci dedico, allo stesso tempo che dedicherei scrivendolo in italiano, però magari arrivano in un secondo momento, quindi se uno vuole approfondire può andarsi a ascoltare, andarsene a leggere e quindi vederle insomma dopo magari, però non è la prima cosa che ti arriva. Certo, anche perché il vostro CD è formato anche con un booklet dove ci sono tutti i testi delle canzoni. Sì, i testi delle e poi canzoni. Delle grafiche, siamo molto legati anche comunque al mondo un attimo dell'immagine, nel senso della multimedialità. L'ultimo video, questo video di Italian Job, ce lo siamo fatti noi in giardino. E anche i nuovi lavori che stiamo portando avanti. Quindi l'Italian Garden l'avete fatto in quel caso. che è molto conosciuto tra altre cose. Il giardino di casa. No. il modo di fare giardino degli italiani. Certo. Sì. Che non è solamente quello di mettersi col barbecue o fuori con lo sdraio, ma anche un po' di curare l'orto, i fiori, il giardino, così via. Parlando di questo pezzo, questo è il pezzo numero 5, è la prima delle tre divise in 5, 10, 15, quasi sono 14, quasi 15 tracce, quindi la prima porzione, questo è un pezzo significativo, tanto vi ha fatto conoscere notevolmente. Beh sì, infatti la cosa bella è stata che appunto facendo un video per gioco, perché l'abbiamo fatto un pomeriggio praticamente, dopo due settimane di montaggio, perché esattamente è stato abbastanza difficile, era la prima volta insomma, quindi... Però è stato soddisfacente chiaramente il fatto di non aver speso niente, averlo fatto per gioco e aver avuto una visibilità e un'approvazione praticamente unanime. Certo, anche perché è un video che si fa vedere, nel senso che rimani subito contagiato da questa vostra forma di partecipazione. Siete là in quattro, si cambiano in continuazione le immagini, voi... che cantate, poi c'è uno che sembra urlare, in realtà sta sussurrando. Sì, ma poi è bello perché la gente si è intrippata su piccole cose che magari noi non... Sì, avevamo curato, ad esempio il fatto... Molti si dicono, il batterista che c'è un certo punto in cui ride, in realtà c'è due volte questa scena, che in realtà l'ho dovuta mettere due volte perché lui tutto il tempo aveva il sole in faccia, guardava così schifato il sole. L'unica volta che ha riso. Sembrava quasi serioso. Sì. Torniamo a salutare Alberto, perché a casa malato sicuramente sarà in ascolto. Bene, anche un'altra cosa, voglio dire, questa non è una radio solo da ascoltare, ma quando ci sono i live è una radio pure da vedere, quindi le nostre webcam sono puntate sui protagonisti di questa serata, i Thinks. Per vederli in faccia potete andare su diretta rockwave.tk e vedervi appunto i volti dei protagonisti. Sì, a tal proposito ringraziamo la Chiara che sta praticamente manovrando le webcam stasera. oltre alla fotografia si muovono, no, manovrando nel senso manovrando nel senso di posizione, no, praticamente, okay. E salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera, anche grazie a lui, siete venuti qua in questa serata. E un'altra cosa dovevo dirvi è questa: musicalmente questo pezzo qua è molto incalzante, molto ipnotico, e poi si sviluppa alla fine, sì, da un certo balzo, un certo... In realtà appunto non l'abbiamo fatto per gioco, ma anche il fatto di sceglierlo come singolo per noi era il pezzo un attimo più rappresentativo, nel senso che è uno dei pezzi più recenti insieme alla prima traccia e che rappresentano un po' anche il percorso, il nuovo percorso, nel senso che questo è stato un album scritto in 3 anni, quindi ci sono delle parti di questo album che ormai ci stanno strette, nel senso che abbiamo voluto mettere dentro perché volevamo rappresentare insomma quello che eravamo stati dai 16-17 anni fino adesso. Però diciamo che appunto questo brano è anche quello un attimo più complesso, nel senso che è una struttura divisa in 6. Raccontami un momento, come è nato questo pezzo musicalmente. È stato un po' un parto, nel senso che è nato dall'insieme di 3 pezzi, ma penso che si senta anche questa cosa, nel senso che c'è un verso che si sviluppa, poi arriva il primo ritornello che è l'unico che si ripete 2 volte, poi la parte finale che praticamente c'entra poco, cioè infatti cambia addirittura la tonalità e tutto. Sì. E lì che è molto particolare, molto bello e azzeccato quel passaggio. Doveva essere appunto teoricamente un'altra, anzi ci avevano consigliato in fase di mixaggio, detto questo qua tagliatelo via, fate un altro pezzo che cioè fare una 15ª traccia tenerlo addirittura per il prossimo album, per il prossimo disco, esatto, quasi tenerla fuori, però alla fine abbiamo scelto di no, meglio così, è andata bene così, nel senso che appunto l'ha fatto un po' così, sorpresa. Clamore positivo, quindi ha scosso, molta gente ha visto il video e ha subito si è interessata al discorso, anche musicale chiaramente il vostro. Vabbè, sì, chiaramente la musica per noi è la cosa più importante, soprattutto il fatto dopo di esprimerla insomma dal vivo, magari in chiave. Dal vivo un pezzo simile, come si fa? Adesso siamo in versione acustica, ma dal vivo con la band completa, batterista, ide. Si fa... lo suoniamo in maniera abbastanza simile, diciamo, come si sente. Chiaramente, ma ci sono alcune cose che vai... Sono quelli, Non c'è uno sviluppo maggiore, cioè più potenza, più grinta, più fisico. Quello sì, sempre. Poi dipende dai pezzi, ci sono alcuni pezzi che magari suonano meglio in disco, altri no, che... Però magari i pezzi più elettronici di questo album in chiave live li abbiamo proprio sconvolti praticamente, magari abbiamo tenuto soltanto la parte centrale, tutto il resto l'abbiamo rielaborato intorno. Questo pezzo più o meno lo facciamo uguale, però ad esempio la parte finale in cui c'è il batterista che canta, sì, e lui non ce l'ha il microfono in live perché sarebbe l'unica palla, inutile mettergli un microfono solo per questa parte qui, quindi praticamente mi sono registrato la sua voce, quindi lui dice shake it one more time e lo inserisce nel momento e giusto. Ho tagliato le prime parti, le ho inserite in un piccolo controller, quindi quando è la sua ora io sono lì col dito che suona la sua voce come fosse una tastiera. Ho capito. Vabbè, allora, visto che questo è l'appuntamento live, non dimentichiamo che avete gli strumenti che sono validissimi ospiti in questa serata, quindi chitarra, basso e tastiere, per farci ascoltare qualcosa di vostro in versione live. Cosa avete pensato per questa serata? Potremmo riprovare a fare questo pezzo qui in versione sempre Italian Job, in versione acustica, vedere cosa ne salta fuori anche senza batterie e quant'altro. Così gli ascoltatori sono anche freschi, se la ricordano bene, sento la differenza. Ecco, sì. Benissimo. Sì. E abbiamo ascoltato, ecco qua, abbiamo ascoltato il pezzo, quello di prima, Italian Job, in chiave acustica, e poi naturalmente per prendere fiato i nostri Finks abbiamo sentito anche fare qualche commento in diretta, nonché aprirsi qualche bottiglietta d'acqua, ma questo è assolutamente il bello della diretta, bevete alla nostra salute, carissimi Finks. Flavio, sì. Ho fatto questa considerazione mentre il pezzo andava, anche con i ragazzi alla fine. Quasi alla Joy Division, molto dark in alcuni momenti. La tua voce era molto dark, secondo me, non so se sei d'accordo. L'hai proprio sviluppato, l'hai trasformato completamente. Bisogna. Però molto interessante, proprio con un approccio diverso. No, beh, questo è in realtà il fatto anche di sviluppare i nostri brani in chiave acustica. L'abbiamo fatto l'estate scorsa, abbiamo fatto una serie di date proprio in versione un attimo più sviluppata di questa, nel senso che avevamo Ari in alcuni momenti, avevamo la batteria, poi eravamo anche tra l'altro già venuti qua avendo anche appunto l'elettronica e tutto, e ci è servito molto per il fatto che comunque tendenzialmente quando lavori a un brano molto prodotto come nel nostro caso, in cui mettiamo dentro elettronica, effetti e via dicendo, la cosa poi che magari rischi di fare è che alla fine hai fatto tutta questa roba, sì, figa, che suona, però magari dopo ci togli tutto e magari il pezzo non sta in piedi, no? E invece siamo accorti che alla fine riusciamo bene o male a renderli anche insomma in chiave molto... Sì. E pensare che eravate molto preoccupati dalla mancanza del batterista, che comunque è di tutto rispetto... Preoccupatissimi! Perché praticamente, sì, oggi tra l'altro c'erano questi pezzi qua, non li abbiamo provati da mesi, e ci siamo ritrovati 5 minuti fa. Però ribadisco quello che ho sentito qualche minuto fa, è una versione decisamente, non dico proprio dark, però molto oscura, con un certo senso del melodico, ma un melodico un po' racchiuso, un melodico un po' lontano, bello, interessante. Io, secondo me, forse è dovuto anche al fatto che comunque torniamo magari a sentire una chitarra un attimo più, cioè questa è proprio quasi punk, l'ha fatta quasi punk, sì, in alcuni momenti, sì. Proprio cattiva, proprio cattiva, però c'è qualche accordino un attimo diverso. Magari anche la batteria, per cui chiaramente si va un attimo più giù e poi ci fa anche un attimo riscoprire l'elemento semplice, come stava giustamente dicendo prima Francesco, cioè nel senso che noi siamo anche abituati a lavorare con un sacco di macchinari, un sacco di strumentazione, e tante volte non ci rendiamo conto invece che le cose più belle, più fresche, più sincere vengono fuori con la semplicità da veramente quello che si ha di più vicino. Sì, scheletrico, era un pezzo scheletrico questo praticamente. Sì, cioè riscoprire proprio il semplice da... La tastiera di Daniele praticamente portava avanti il discorso. Lui con la chitarra dava un input, tu con il basso facevi il tuo lavoro, e poi secondo me hai fatto, praticamente hai ricostruito un altro pezzo, a mio parere. l'hai completamente trasformato. Questo è quello che ho sentito io, avevo mai sentito prima, assolutamente, una cosa assolutamente nuova per me. Beh, assolutamente nuova, anche perché insomma noi siamo fortunatissimi, Maurizio, ad avere i gruppi qui davanti a noi a suonare, e ci fanno sempre delle sorprese. Esatto, dire, esatto. Compresa questa, ecco, alla faccia che non sapevano suonare senza il batterista. Vabbè. Ok, e poi Albert ci ascolta, si incazza. Sì, sì, sì, vabbè, sì, sì. No, beh, vabbè, adesso facciamo un tour in tre. Quello giusto, no? Ma magari possiamo anche sentire al telefono. Ce l'avevo la volete. Batteria qua, mi è venuto in mente adesso. Potevo far partire il loop. Ah, c'avevi il loop. Allora, della batteria. Allora questo sarebbe stato un affronto. Effettivamente. Vabbè, e dopo ci mando gli sms incazzosi. Non so. Vabbè, per conoscere meglio i Finks, cosa consigliate di fare oltre che ascoltare questa trasmissione? Beh, c'è qualche vivo di sicuro. Sì. Ascoltarsi l'album e soprattutto venirci, ascoltare l'album, cioè scaricarselo in qualsiasi modo. Meglio chiaramente se è legale. Sì. È consigliato illegale, sì, però... ma altrimenti c'è lo streaming, sì, ce ne sono, sì, di, sì, modi, sì, insomma, anche legali per non comprarlo e ascoltarlo comunque. E soprattutto venire ai nostri concerti, nel senso che alla fine la musica può sopravvivere lì, nel senso che anche per noi artisti quel minimo, magari, cioè chiaramente la soddisfazione più grande è quella dei live, e il fatto comunque di avere davanti il tuo pubblico è la cosa un attimo più importante, quindi... Certo, allora visto che voi siete di Bassano, la nostra radio si chiama appunto Blu Radio Veneto perché è identificata nel territorio veneto, ricordiamo quelle che possono essere alcune date dove i nostri ascoltatori possono venirvi a vedere. Beh, abbiamo suonato le ultime due la settimana scorsa qua in Veneto per Pordenone, e adesso siamo... Sì, diciamo, parzialmente no, scusato, Friuli, perché Friuli, no, Venezia, Giulia, dai, la parte Venezia. Ho lasciato la cosa in Veneto, sì, che era una a Barbarano, e la settimana prima a Pordenone, poi adesso, sì, torniamo a Vicenza a fine giugno. La prima mi sembra che è ancora da confermare, però deve essere a metà, un venerdì di metà maggio all'Atelier di Bologna. Un po' di fischi. Ok, ho capito, sì. Non so se si è sentito, comunque a metà maggio, sì, all'Arteria di Bologna. Ok, esatto. Quindi andate ben oltre il Veneto, Bologna, mi pare, giusto? Sì, poi appunto in Veneto saremo nella nostra città prima settimana di giugno, mi pare, e poi a Vicenza a fine giugno, e poi adesso insomma ci sono un po' di date, insomma. Di date sono nel finale, un po' in questi giorni, vediamo. Sì, da confermare anche probabilmente più al sud. Ricordiamo anche l'etichetta, che è la Rima Records, mi pare. Sì, esattamente. Di Bologna. Di Bologna, che ha prodotto il disco praticamente, che ha stampato il disco, non prodotto, stampato. Ho fatto una gaffa, ha stampato il disco. Michele Ervesco, anche lui si arrabbia. Sì. Dopo che lui già era batterista. Irma Records e Piano Zero sono le due realtà che ci hanno, insomma, hanno permesso di realizzare, insomma, questo primo nostro lavoro, e basta. Vabbè, allora ascoltiamo un altro pezzo di questo primo vostro lavoro, che torniamo a dire si intitola Login, e perché no, proprio far ascoltare quella che è la title track, così si dice all'inglese, del vostro nuovo lavoro. Allora l'ascoltiamo e poi naturalmente torniamo a commentarla insieme qui sugli studi, dagli studi di Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Are you sure? Radio Veneto. Regole alle tue frequenze. Rockwave, l'onda del rock. Impossibile non muovere la testa, eh? Dire. Ma ascoltando queste musiche, queste canzoni, insomma, viene proprio anche un po' da ballare. Da ballare senza sballare, eh? Chi conosce questi termini stia ben attento. Ecco, allora, Login, questa prima canzone ad aprire il vostro lavoro, appunto il lavoro dei Finks, con una copertina davvero particolare, molto, molto avanti, con il volto di chi è il volto? Di una persona che non esiste in realtà. Di una persona. Sono due persone fotomontate. Ecco, benissimo. E una con una maschera addirittura di ferro. Di lattine. Infatti, ah sì, sono le aperture. In realtà non è una cosa così tanto avanti, sì, nel senso che sono lattine. Sono però nessuno ci aveva fatto mai la maschera, comunque, dai. Con le lattine, no. Ma comunque la copertina è di un artista milanese. Sì. Cui ci siamo affidati in quanto avevamo visto un po' i suoi lavori molto particolari, tra abbastanza surrealisti. E anche il resto, quello che è rinchiuso all'interno del vostro booklet? No, quello all'interno del nostro booklet l'abbiamo sviluppato noi insieme al nostro grafico Alberto Zanotto, che è uno dei due produttori insieme a Michele, che ci hanno da sempre, dal primo concerto che ci hanno visto, hanno deciso insomma di seguirci. A partire dal bellissimo volto dello scimpanzé o, esatto, gorilla, non quindi so, lui sì. Praticamente ha fatto questa ricerca. È il vostro produttore? No. Ci assomiglia. Non ci assomiglia. Speriamo che non ci ascolti. No, però via internet. No, però secondo me un po' ci assomiglia. No, sì. Può capitare. Sì, qua in un'intervista che avete fatto recentemente, ho visto qua su un'indagine che ho fatto, parlate in modo molto interessante del discorso della grafica, della copertina, cosa molto essenziale. Sì, chiaramente dopo la musica e tutto il resto, certo, però dopo la appunto musica. L'ho già detto anche prima che siamo molto affascinati da, sì, da tutta la multimedialità, tanto che appunto anche il nostro sito ce lo siamo fatti noi, e quindi in questo caso la grafica era abbastanza importante per noi, in quanto comunque non cantando in inglese, non avendo i testi in primo piano, ma comunque volendo dire qualcosa, avendo dei contenuti, delle idee, delle cose insomma nostre da esprimere poi. Allora abbiamo usato anche un po' le immagini per esprimere, dare degli input, perché in realtà comunque i nostri testi non è che raccontino storie, sono comunque immagini, sono flash, sono pensieri scomposti, racchiusi poi in un unico testo a seconda dei brani, che però hanno in genere un filo conduttore che abbiamo cercato di esprimere attraverso delle immagini che abbiamo legato nella copertina ognuna ad ogni testo. Insomma. E a proposito di questo Login, sempre qualcuno di voi ha detto che questo è chiaramente un termine che rimanda immediatamente ad un immaginario legato alla tecnologia e l'informatica, ma in realtà le chiavi di accesso sono molteplici, non soltanto la tecnologia e l'informatica. Sì, sicuramente, cioè, soprattutto adesso, dopo questo primo lavoro, quello che stiamo sviluppando di nuovo è qualcosa appunto che sia molto più contrastante tra appunto il lato molto tecnologico che chiaramente stiamo portando avanti, però allo stesso tempo far sentire molto di più la nostra mano quando c'è, quindi live l'avete fatto, sì, benissimo, sentire la vostra mano, diciamo, stasera. che questa cosa noi l'abbiamo da sempre portata in live, nel senso che se uno viene a vederci live vede soprattutto il lato rock, il sudore, certo, la parte suonata, e chiaramente nel disco questo viene fuori in meno, nel senso che il disco volutamente è stato fatto molto freddo, molto, molto quadrato, molto sintetico, e diciamo che i nuovi lavori, la nuova idea anche sulle prossime lavori appunto invece di quella di far sentire anche un attimo di più, non vedere soltanto l'album e il live come due cose complementari, ma vedere anche l'album come qualcosa complementare a se stesso. Quindi un live vero e proprio nell'album prossimo? No, diciamo appunto molti contrasti forti tra quello che saranno magari pezzi molto elettro, in cui noi non ci siamo. Ah, ho capito. C'è soltanto la macchina. La macchina. E magari, non so, dei lavori in cui invece si sente molto di più la macchina, magari la mandiamo anche via totalmente. Ho capito. Bene, ricordiamo il nostro ascoltatore che stiamo piacevolmente conversando con i Finks, questo gruppo di Bassano del Grappa, elettronica, pop, rock, un po' un condensato musicale, e visto che i Finks appunto sono arrivati non solamente con le loro persone ma anche con i loro strumenti, direi che è giunto il momento di ascoltare un altro pezzo live. Cosa ci proponete, Francesco? Allora, Sì, infatti ci sono un po' di fischi qua. Forse è forse la cuffia di Francesco. Forse la mia. Sì. Scegliamo il nostro primo singolo, The Game. Sì. Ci siete voi? No, mi dimenticavo io, ok. Non pensavo che suonasse. The clown you feed can't stop. Ed eccoci qua, eccoci. Un altro pezzo live dei Things, le 23:29 minuti in questo istante, siete sempre all'interno di Rock Wave, l'onda del rock che vi arriva puntualmente ogni sera a partire dalle 22:30 dalle frequenze di Blue Radio Veneto, in questa serata live assieme ai Finks, assieme a Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Stavolta Flavio, secondo me un'altra idea che mi è venuta in mente con questo pezzo, molto Brit, molto inglese, assolutamente inglese, sì. E con la chitarra stavolta meno violenta, più dolce, più malinconica, ecco. Hai lasciato un po' spazio, cioè... ma sei chitarrista te? No, non sono chitarrista, ma mi sono venute queste sensazioni. No, perché sei molto attento alla chitarra, la chitarra mi è sempre piaciuta, mi è venuto queste sensazioni, queste emozioni, il tuo basso chiaramente praticamente collegava i due strumenti in questo pezzo, secondo me teneva i due strumenti uniti, il famoso basso Vinaville, esatto, basso Vinaville che potrebbe essere il mio nuovo soprannome. Ho visto gli occhi suoi. Sì, sarei un po' impaurito, Daniele, sarei un po' impaurito, poi sei ripreso immediatamente. No, perché mi hanno preso alla sprovvista, ti hanno preso contropiede, perché non mi ricordavo che dovevamo suonare. Infatti stavo partendo con l'altra, poi ho detto il nostro primo singolo e non collegavo, dopo ho realizzato. Hai realizzato. Un po' in ritardo, però dai. Sì, ma ci sei riuscito, ci sei riuscito. No, invece mi erano arrivati per SMS i saluti da Alberto. Esattamente. E, appunto, non so, magari si potrebbe anche telefonargli. Se, ma vabbè, se mi passate il telefono. Lo dico in diretta così. Meglio di no. Ovviamente me lo scrivete, vabbè, lo chiamiamo, sì, volentieri. Facciamo due parole anche con lui. Innanzitutto, visto che stiamo parlando di pop elettronico, sono pochi i gruppi che sviluppano questa nuova fase, diciamo, pop elettronica, forse perché, non so, o c'è bisogno di troppa energia, oppure lo reputano a volte troppo facile perché dicono tanto lo fanno tutti questi strumenti ma elettronici. Forse è una cosa un po' in Italia, magari. Che probabilmente in Italia è un po' più difficile, perché secondo me è una cosa che va tanto a braccetto sia con la lingua che con la dimensione elettronica del club, del frequentare il club, della discoteca vista in un certo modo e non all'italiana, cioè nel senso il mega evento grandissimo con il mega DJ, oppure vado in discoteca per drogarmi, nel senso che questa cosa è molto forte, esatto, in Italia, mentre se si va in qualsiasi club a Londra, ma potrebbe essere... Beh no, ci si droga anche a Londra. No, per carità, però c'è l'atteggiamento diverso anche nei confronti, ad esempio, dei DJ, no? Cioè, certo. Tanto c'è una selezione molto più rigida, nel senso che qua DJ mettono su dischi tutti, ok, va bene, però a Londra è bello anche stare... La gente sta dietro al DJ, se sbaglia il DJ lo cagnano, come succede. Hanno ragione, lo pagano anche fiori di quattrini, tra l'altro, insomma, che ci sia anche un poi comunque al di là dei DJ sicuramente c'è una sensibilità un attimo maggiore, ma in generale verso la musica emergente, secondo me, più che per un determinato genere, nel senso che anche noi dovremmo sicuramente riscoprirlo, ma ricordiamoci che alla fine la musica occidentale l'abbiamo inventata noi, e anche la musica elettronica siamo stati comunque tra i primi a sperimentarla, nel senso che è partita dalla Francia a Germania, ma poi insomma a Milano in realtà si sono concretizzate le due esperienze, quindi dovremmo essere noi tuttora, insomma, i pionieri, o comunque coloro che hanno una rappresentanza quantomeno europea anche in questo genere, o comunque in questa sensibilità. Ce ne sono, per carità, di esempi, però siamo un po' troppo provinciali. Sì, a proposito di sensibilità musicale, vorremmo capire un po' quelle che sono state le vostre deformazioni musicali, ovvero chi vi ha portato ad esprimervi nella musica elettronica. Quali sono i vostri ascolti? Ci può essere una parte rock, ci può essere una parte pop elettronico. Leggevo alcune vostre indiscrezioni riguardo la vostra musica preferita, figurava un Radiohead piuttosto che un Nirvana. Sì, beh, sicuramente siamo partiti tutti dal rock, nel senso che abbiamo ascoltato tutti, io principalmente, insomma, sono partito dall'ambiente di Seattle, loro mai, Pietro... Io tanto, sì, magari più anni 60-70. Per citare magari tre dischi, tre artisti a scelta in questo momento, sono cosa pochi. Verrebbe in mente? Ad esempio, a Daniele. Sono pochi tre dischi. Ma in questo momento sì. Beh, sicuro l'ultimo album di Phoenix. Poi che è quel gruppo parigino, no? Sì. Se non sbaglio, molto forte. Sì. E un altro, l'ultimo disco, adesso i nomi di dischi non me li ricordo, però... Wolfgang Amadeus Phoenix, mi sembra. Quello. Uno dei Phoenix, l'altro, l'ultimo dei Groove Armada. Ah, Groove Armada, sì, interessante. Sì, alla fine sono di tutti noi quattro, sono quelli che ultimamente sono piaciuti di più. E il terzo, poi ditemi anche voi. Ma cioè di adesso, di quest'anno? No. Genere di tuoi elementi. No, beh, nel mio percorso, è il tuo percorso. C'è Nevermind, Key Day e dopo With Teeth dei Nine Inch Nails sono stati implementati. Sono i tre dischi che ti hanno. Sicuramente dopo qualcosa dei. Ma come mai Key Day dei Radiohead? Non so. Computer o se no quello dopo? Sì, quei due album là, OK Computer, Key Day, per me sono stati proprio. Io prima ascoltavo solo rock, non avevo mai sentito certo tipo di suoni, e da lì ho scoperto questo Poi di lì è iniziata un po' una ricerca nei confronti, insomma, di tutto l'ambiente nordico, quindi insomma Boards of Canada piuttosto che Roxo. E ti faccio questa provocazione: Brian Eno, cosa ne pensi della musica elettronica di Brian Eno? Elettronica, della musica di Brian Eno? Ha influenzato tutto? No, o quasi. Insomma, quelli che hanno influenzato a partire, cioè i primi sono stati altri. Insomma, non te, dico la musica di un certo tipo. Sì, sì, in generale, insomma, c'è, cioè, la musica elettronica partita da personaggi come John Cage. Sì, d'accordo. No, non parlo di poi. Sono d'accordo con te, ma elettronica è sposata al rock, questo voglio dire. Ah, sicuramente ha contribuito molto. E poi, cioè, i personaggi comunque sono tantissimi, insomma, ricondurli soltanto una figura importante, ma non essenziale. Sicuramente ha fatto tante cose molto interessanti, molto avanti. Poi vabbè, uno come Aphex Twin, per esempio. Sì, sono d'accordo anche te. Anche su almeno questo per me è stato molto più sì. Però Brian Eno, sai, io di una certa generazione lo vedo come un capostipite per certe cose. Non so se sei d'accordo, Flavio. Beh, assolutamente sì. Solo che dobbiamo tenere conto, Maurizio, che l'età dei quattro protagonisti dei film è giovanissima. Sono quasi come la tua da solo. Esatto. Noi siamo partiti, è vero. Ha perfettamente ragione lui, o quasi. Sto naturalmente scherzando. Una distanza di 20 anni circa. Vabbè, però la musica bella del passato, cioè, si ascolta. Sì, diciamo che però, ecco, io e Maurizio partiamo appunto da Brian Eno, partiamo dai Talking Heads, partiamo da quelle realtà, mentre magari... Io in realtà ero partito ancora prima. Ancora prima, ecco, sì. Vabbè, e poi per finire, Pietro, ti mancavano un paio di dischi ancora, forse. Dai. Oddio, da dire, ma attuali, dici, o proprio in assoluto? Ma proprio quelli in assoluto. Forse so che poi in assoluto io ti posso dire magari il primo dei Doors, sì, però ti posso dire Led Zeppelin 2, eccolo. Ti posso dire The Dark Side of the Moon, che vabbè, un altro che ce l'avevo a casa una vita. Poi me lo sono ricomprato andando a Londra, che era tipo non so che anno che era uscito. Sì, perché è stato rimasterizzato migliaia di volte. Esatto. E poi adesso sta tornando fuori anche in vinile, dicono che proprio siano anche le tracce quelle originali ancora che tengono. Quindi. Addirittura. Sì, tanta roba. Hanno calcolato che The Dark Side of the Moon vende ancora tra i 500 e i 600 mila copie l'anno, quindi più del nostro disco di sicuro. E un'altra cosa che ho letto recentemente, tu sei giovane, non lo conosci, Steve Miller Band, ti ricordi Steve Miller? Sì. Vende un milione di copie l'anno, con la sua antologia uscita non so quanti anni fa. Hai capito, Flavio? Sì, assolutamente. Lui ognuno ha la propria maniera di far soldi. Esattamente. Soprattutto, ma ancora i diritti Steve Miller Band? Oppure... Sì, è uscito, cioè è venuto in Italia recentemente, ha fatto due dischi recentemente dopo 20 anni. E tutti si ricordano The Joker, loro sono giovani, ma The Joker l'avete sentito sicuramente. Sì. In versione anche elettronica, tra parentesi, qualche musicista, The Joker è famosissimo. Ok, vabbè. Allora, Maurizio, facciamo ascoltare un altro pezzo, in questo caso la traccia numero 6, che tra altre cose è una traccia che dura anche relativamente poco, sì, e che poi possiamo tornare a commentare insieme. Siccome non mi fido di pronunciare il titolo, volete aiutarmi voi? In realtà, teoricamente giusto dovrebbe essere tipo Noise Cute. Noise Cute. Non so come si chiama. Sembrava sì, con l'umlaut, con la diesi sopra. Insomma, sì. per noi. Comunque, noise, quindi, cut, all'inglese Noise Cut. Sarebbe noise, cioè un taglio del suono. Un taglio del suono. Sì, in realtà, infatti la grafica nel libretto è lo spettrogramma di questo brano, che se si guarda a metà c'è proprio un taglio, nel senso che c'è una pausa, quindi l'abbiamo raffigurato attraverso proprio lo spettrogramma del brano. Beh, benissimo, anche parole difficili in questa trasmissione, quindi andiamo a ascoltare Noise Cut, sempre con i Phoenix. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. We'll be right back. Rockwave, l'onda del rock. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa Noise Cut, durava così poco che è entrata anche l'altra traccia, ma non importa, è sempre il bello della diretta, poi magari ce l'ascoltiamo anche l'altra. E allora, come mai così corta? Sono i due brani dell'album un attimo più particolari, che sono questa e poi Anorexic Madonnas, che magari ascolteremo dopo, che sono anche i pezzi più corti. Un attimo più elettronici, un attimo più sperimentali, particolari a livello sia un attimo di struttura che di suoni che di ispirazione. L'ispirazione dove è partita dal punto di vista musicale? Un pezzo così corto, così coinciso praticamente? In realtà da un giro di Bach che è presente in mezzo. Da un giro di? Di Bach. Ah, io a Sebastian praticamente. Sì, sì, di lui. Di lui, del grande, dell'immenso, dell'immenso. Sì, nel senso che infatti a metà pezzo c'è una scala, insomma, un riff, diciamo, anche se il riff è abbastanza volgare, riff di tabacco comunque. Si incazzerebbe a manetta, sì. Bach. Non è, l'abbiamo, cioè, è un modificato, però c'è questo input qua, ho detto, perché prendiamo un pezzo così e mettiamogli sotto dei suoni abbastanza acidi, e infatti la batteria comunque è tutta digitale, campionata. Di Alberto ha fatto un bel lavoro qua, bisogna dirlo. I pezzi che ama di adesso più. Adesso lo sentiamo. Però ad esempio anche in questo caso in sono questo pezzo qui è molto digitale, molto sperimentale, molto elettronico, sperimentale nell'album. Poi in realtà adesso in live c'è uno dei pezzi che abbiamo sviluppato anche di più e la facciamo in chiave totalmente differente. Okay. Tenendo magari solo la parte di voce, poi tutto il resto invece l'abbiamo un attimo rifatto. Allora, carissimi Finks, una sorpresa per voi. Forse lo sapevate già, doveva intervenire. Eccolo qua, Silvio. Buonasera Alberto. Ah no. Buonasera Alberto. Buona, buona. Abbiamo parlato bene di te, Alberto, in tutta la trasmissione. Con la malattia come va? Ecco. Sì. Sono andati avanti da Bassano fino a Padova a fare un, due, tre, un, due, tre. Vabbè, allora, Alberto, mancavi solo tu per dirci un po' anche quelle che sono le tue, come dire, provenienze musicali. Come batterista, un percorso diverso dai tuoi colleghi? Tu Alberto usi la batteria elettronica, mi pare. No, ma dovevi venire con la batteria elettronica stasera. Ok. Benissimo, benissimo. Flavio è un grosso esperto di batteria. Sì, vorrei dire, non perdiamo mai di vista la batteria da un punto di vista proprio solido, come deve essere intesa, perché altrimenti... Sì, sì, vorremmo il batterista anche se non ce ne fosse bisogno. Bella, da scriversi questa, Alberto, da scriversi. Vabbè... Io ce l'ho già. Ecco qua. il prossimo disco stavano pensando di chiamarlo Tachipirina, forse dedicato a te, Alberto. Slet. Ecco, che diciamola, è più una dipendenza che una necessità ormai, proprio, che non so cosa. Un drogato paretto. Mamma mia, ho sempre problemi soprattutto di stomaco, ricordiamo. Vabbè, sempre in bagno prima dei concerti. Va bene. Sì. C'è Daniele che sembra un po' col dente avvelenato nei confronti di Alberto, no. Mi sembra di ricordare. Vabbè. Vabbè, non hanno bisogno di pubblicità, vanno avanti. Ecco, vabbè, ognuno la pensa così e come vuole. Ecco, benissimo. Allora, Alberto, buona guarigione. Ritorna presto in forma. Ti vorremmo qua in studio anche per avere un po' di contraddittorio in più. Beh, settimana prossima comunque ha detto che viene da solo a fare una cosa, lui suona, suona la batteria, ma anche tutta la settimana addirittura si pensava. Facciamo una programmazione del tutto particolare. Va bene, Alberto. E Maurizio viene la chitarra. certo, visto che è così un intenditore. Sì. Allora, grazie Alberto, adesso di essere stato in compagnia nostra, meritata parentesi anche per lui. E adesso noi torniamo dal vivo, se siete d'accordo. C'è ancora abbiamo l'ultimo brano, non so se lo facciamo di chiusura oppure... Ma possiamo farlo anche adesso? Come preferite voi. Facciamolo adesso. Per noi, facciamolo, dai. Yeah. Blu Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora una volta ad ascoltare un'altra canzone live dei Finks, che ci stanno anche presentando il loro nuovo lavoro che si intitola Login, tutte tracce di pop elettronico, canzoni in inglese, ma tanto tanto pathos. Decisamente. Poi sì, stasera Francesco in questo momento ha cantato anche in falsetto, leggermente in falsetto. Leggermente in falsetto. È una cosa positiva. Il falsetto, abbiamo ripetuto tante volte, quelle band che tentano di cantare il falsetto, non è facile, è difficile cantare in falsetto, secondo me. Molto complicato. Cosa dici, Francesco? Sì, non lo faccio volontariamente. No, non l'hai fatto, no. Però... Come l'hai fatto in questo momento è stato positivo. Sì, sì, c'era... Che anche quell'eco di cui è dotato il microfono gli dà. Sì, in realtà forse ne ho messo anche troppo, perché io qua mi sento strano e poi scopro riascoltando che ci n'è sempre troppo. No, ma comunque dava un buon senso anche di spazio. Diciamo, esatto, in situazioni come questa in cui si esce con due jack da un mixerino un po' scrauso, ma ridare un po' l'ambiente con la voce. E quindi da bene, in certe situazioni sembrava anche un piccolo Sting, si può dire. Esatto, così. Esatto, è vero, anche quello. Anche quello. Non esageriamo comunque. Sì, no, difatti ho detto piccolo, ma nel senso che i piccoli cresceranno anche voi. Bene. Quindi voi avete ancora un'età dove ci sono ancora tante cose, si impara sempre, tante cose da età, dire, eh. Sì, certo. Parlavi delle nuove prospettive, delle nuove idee che state portando avanti per il prossimo, ci sarà un prossimo disco, questo è un disco che avete inciso, però... No, beh, sì, siamo già nell'ottica di pensare, ormai questo disco per noi era vecchio quando è uscito, nel senso che comunque chiaramente... C'era frutto di tante cose precedenti. Sì, esatto, quindi adesso per noi la testa è sui live di questo album, che comunque appunto tutti i pezzi sono rivisti, quasi tutti i pezzi sono rivisti in chiave live, quindi chiaramente vengono vissuti in modo diverso nel momento in cui si suonano live, però a livello proprio compositivo chiaramente... Ma suonate delle cose anche nuovissime praticamente in live? No, per ora no, anche perché sono ancora tutte... Un abbozzo praticamente. Sì, sono alcune sono abbastanza già su un buon punto, però non ce n'è ancora nessun pezzo chiuso, in quanto comunque vogliamo lavorarli. Mentre l'album precedente, questo primo e ultimo album è stato sviluppato anche a livello di produzione in momenti diversi, o comunque c'è stato un lavoro abbastanza lungo dietro, sia a livello compositivo sia anche un po' a livello proprio di produzione stessa dei brani. L'idea sul prossimo lavoro è quella di concentrarlo in un tempo molto più stretto, quindi racchiudere le esperienze di un anno o due e magari farlo. Adesso abbiamo in progetto anche di, insomma, quest'estate, magari fine estate, di trasferirci e andare un attimo da qualche altra parte, magari sull'Italia, chiuderci dentro un quasi di ritiro praticamente. Sì, un ritiro spirituale in cui magari lavorare le nuove produzioni e venire fuori magari in autunno con già un'idea abbastanza chiara e poi insomma. Dobbiamo assolutamente programmare un nuovo appuntamento. Allora. Certamente, certamente. Batterista compreso, Alberto compreso. Ci auguriamo che viene la settimana prossima. Facciamo 5-6 ore di assolo, esatto. Come faceva una volta Bonzo, chiaramente. Zeppeliano convinto come. Vabbè, allora abbiamo il tempo per ascoltare ancora un pezzo. Sì, esattamente. Quindi abbiamo scelto la traccia numero 13, che si intitola Amplifon. Sì, è il brano meno da album e più da live sicuramente, nel senso che è il brano in cui generalmente chiudiamo i concerti, in cui spacchiamo tutto, no? Sì, anche talvolta. Ah, sì, sì, succede, sì. Beh, qualcosa che si spacca. Soprattutto la batteria di Alberto. Sì. Non spacchi la chitarra come faceva Kate Moon. Ma la mia chitarra lui, Kate Moon spaccava la batteria e Pete Townsend qualche volta spaccava la chitarra. Il mio primo concerto l'ho lanciata in aria, poi in realtà non si è spaccata, ce l'ho ancora lì, già è tutta... Un po' così, un po' a pezzi, un po' a pezzi. Bene, bene, è positivo. Bisogna essere anche coraggiosi, vuol dire, a lanciare in aria uno strumento. Sì, sì. Vabbè, allora ascoltiamo questo pezzo, poi torniamo ancora con i Finks. Rockwave, l'onda del rock. Get get inside it. This is what you get inside it. This is what we get inside it. War is gonna save us. This is what you hurt inside it. This is what you hurt inside it. This is what we hurt inside it. Details now could save us. And I grew up believing that the clues will make you my neighbors. Now censor my words before I say. This is what we get inside it. War is gonna save us. This is what I heard inside it. This is what you heard inside it. This is what we heard inside it. Details now could save us. And I'll fade out forgetting that you can't deny me access now. I wanna be silly and spit on your head. E abbiamo ascoltato Amplifon, che è un brano un po' cattivo, sì. Voglio dire, nel senso molto, molto arrabbiato, molto, molto intenso. Ma è un brano più rock dell'album. Si ricordava anche che voi arrivate a spaccare anche gli strumenti con questo pezzo. Però. Insomma. Però facciamo in senso figurato. Ecco. vogliamo bene i nostri strumenti musicali, che danno suoni così, così belli. Bene, allora siamo arrivati in chiusura di trasmissione, abbiamo sforato, siamo oltre la mezzanotte, però ne è valsa la pena stare con i Things per conoscere qualcosa di più del loro ultimo lavoro, che si intitola Login, con ben 14 tracce da ascoltare e, perché no, anche da ballare. Sì, indubbiamente l'ultima abbiamo sentito era molto acida, disergica, psichedelica, però stasera Paganini non ripete, ma stasera ripetono il primo pezzo che è piaciuto moltissimo a noi della redazione. E solo perché l'abbiamo chiesto noi, Maurizio. È solo perché l'abbiamo chiesto noi, esattamente. Benissimo, allora prima di lasciarci una rapida visione a quello che è l'appuntamento di domani sera, Rock sì. Wave Live. Domani sera abbiamo un gruppo che si chiama Radio Stars, ci sarà Michele Tosoni in regia, ci sarò io alla conduzione e quattro musicisti molto tosti, molto forti musicalmente parlando. Benissimo, allora torniamo ai Finks. Ragazzi, Francesco, Daniele, Pietro, vi ringraziamo per essere stati con noi in questa serata, per averci fatto conoscere la vostra musica, questo pop elettronico davvero gradevole, però ci fate ascoltare quel pezzo che già abbiamo ascoltato all'inizio di trasmissione, che era l'Italian Job vista dalla parte acustica. Allora Maurizio, noi salutiamo il nostro pubblico, vi lasciamo proprio con i microfoni solo per i Finks fino all'ascolto integrale di questo Italian Job. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao e buonanotte, vi lasciamo con i Finks. Ciao. Ciao. Ciao. Rock Wave, l'onda del rock.